Non ce la facciamo a interrompere questa sigla perché è bellissima. Benvenute e benvenuti a Lovelace. Ciao a tutti! Buonasera, buonasera. Oddio, che bella questa sigla. Che poi forse non l'abbiamo mai detto. Non abbiamo mai detto di chi è. È di Hatsune Miku. Cioè, voi potreste pensare che non so, che magari è di. Boh, di chi? Di Mozart? No, no, è Hatsune Miku che è una grande star che noi insomma ci sentiamo di sponsorizzare, non è molto conosciuta, quindi volevamo darle una mano e quindi abbiamo scelto di usarla Fit Beethoven. Sì, esatto, di usarla come, sì, come nostra sigla. Bene, puntata di Lovelace oggi, 20, che è? 20, 20, 20 20 e basta, gennaio. E oggi parliamo di Paniamo, una questione fondamentale di cui avrete sentito magari parlare e probabilmente vi sarà sanguinato il cervello, perché non è uno di quegli argomenti proprio che sprizzano, cioè, non so, che fa festa. L'industria 4.0, questo termine, no, che già, come di, frizzante, che già, Parolone. sì, prelude a una puntata di proprio di allegria e felicità. La quarta rivoluzione. È così, Tu, già tu, c'è un altro tu. appeal. Sì, Industria 4.0 e o quarta rivoluzione industriale, insomma, c'è vari. Poi dopo hanno voluto chiamarla transizione 4.0, insomma, comunque la cosa è il 4, cioè palesemente il numero nella numerologia. Dovevamo andare a vedere in effetti E nella cos'è il numerologia. quattro? Sì, nella cabala, non so che beh, Boh. boh. Comunque a loro gli piace molto. E quindi parliamo di. Cerchiamo di un po' approfondire in che cosa consiste l'industria 4.0, chiaramente da una prospettiva critica come la nostra, e appunto proviamo un attimo a spiegarne il significato e magari andare a vedere le criticità, che sono tante, forse sono tutte, però insomma, questo poi. Ma io dico solo che nel nostro foglio dove abbiamo scritto cosa dire, ho letto Renzi e mi è venuto un po' di rigurgitino. Sì, l'hai visto, C'ho eh? rigurgitino. Quando leggo Era Renzi. sotto articoli horror, vero? Sì, Sì, sì, sì. esatto. Sì, Sotto articoli perché horror. c'è anche Calenda, non so se. Ah! L'ha detto, Calenda. Eh sì, Cabala, Calenda, non so. Calendaiscopio. Sì. Però andava fatto, abbiamo deciso di parlarvene e quindi abbiamo deciso di iniziare con le loro parole, cioè come ne parlano i giornali, anche le istituzioni, gli enti vari, perché comunque sia, se ne fa un gran parlare, poi vedremo soprattutto perché questo gran parlare è finalizzato a far girare un sacco di soldi e quindi insomma alla fine della fiera si riduce tutto a soldi che girano, ma questo insomma non è solo in questo caso, ecco. Però come ne parlano? Ma Abbiamo scelto un po' di articoli anche in particolare. prima di iniziare cioè vorrei fare un attimo un avvertimento agli ascoltatori che è allergico alla fuffa, abbassi adesso il volume Sì, è e poi lo vero. rialzi fra 10 minuti, tipo, non ci Ma no, mi sa lasciare. che dovete proprio cambiare Cambiare radio. stazione. Eh sì. Cioè, è Fondamentalmente cercano, cioè, ok, fammi entrare in modalità fuffa, mi preparo. Vai, vai, mettiti il cappellino quello. L'ho perso. Ah, che cazzo No. però. Boh. L'industria 4.0. L'industria 4.0 è un agglomerato di soluzioni verso l'efficienza green per l'automazione dei processi non solo industriali. Guarda, sono in quei momenti in cui vorrei avere quelle console da radio, quelle vere, con non so, i piatti, il... Ah, tu dici Sì, volevo fare un proprio. applauso, non lo so. Vabbè, sì. No, beh, bello. Lo introduciamo. Lo Facciamo posso i fare io, pulsantoni. faccio il Facciamo anche noi i rumore. Lo pulsantoni. posso fare io, tipo te mi pigi un dito e io faccio... Non so. Rimane giusto in termine Industria 4.0. IoT, sì. Fondamentalmente, la filosofia che cercano di far passare e che passa verso, grazie agli incentivi, un po' la lubrificazione e un po' l'iperammortamento che vedremo dopo del 250%, comunque, è rendere automatici tutti quei processi industriali per usare meno energia, avere meno sprechi e avere una tonnellata di dati su cui poter lavorare e fare delle proiezioni e dei calcoli, diciamo, di tutto quanto la parte di produzione, di linea, logistica e non solo, ma arriva fino al livello ristorativo, per esempio. E più che ristorativo, magari sarebbe meglio food and beverage, perché comunque anche quello è un'industria. E poi comunque parlare in inglese è molto cool, cioè, Si sente il rumore della fuffa, sì, la. esatto, se no non eri abbastanza Quello la purtroppo. ristorazione, senti come fa subito Dovevi l'Abruzzo, mettere non lo so, food non and va beverage. bene, ok. E sviscerandolo un pochino, fondamentalmente arriva dall'Unione Europea una spinta verso, quindi, raccogliere tutti i dati in maniera automatica tra dispositivi. Che vuol dire? Tu riempi di sensori ovunque, qualsiasi macchinario, questi sensori vengono raccolti da un computer, da un server centrale, e un concentratore di dati, si dice, in gergo tecnico, e questi dati poi vengono lavorati da uffici centrali, da stazioni centrali, se si vogliono proprio fare i termini fighi o la figaggine assoluta, l'intelligenza artificiale, che però non so se ci stava lì, era Comunque quando necessario. dici concentratori di dati mi viene in mente uno spremi Oddio, è vero. agrumi. Tipo quello Bellissimo. di cosa, guidare la tipa per la soffitta. Tipo che ce l'ha in testa. Certo. Di foglie Excel, fa una bella Esatto. spremuta di Sheets. Più o meno è questo in realtà. E niente, fondamentalmente è un progetto che sta andando avanti fin dal 2000, è partito dal 2013 nella Germania e sta andando avanti, è andato avanti in tre tranche, tra cui il 2017 fino ad oggi il 2021, con vari scaglioni di iper e superammortamento. Comunque, anche qui bisognerebbe rassicurare gli ascoltatori. Se è partito nel 2013 in Germania, in Italia prima del 2030 non lo Sì, vediamo, ma state infatti. tranquilli, non succede niente. Sì, ma infatti. Tranquilli. Siamo sul pezzo comunque noi, eh? Cioè proprio ancora prima arriviamo. Certo. Come sempre, come sempre. E niente, quindi fondamentalmente è questo qui. Sono soltanto un agglomerato di sensori, cercando di andare incontro a tre punti fondamentali, che è automazione, efficienza e la centralizzazione dei dati nel cloud. Quante paroloni oggi, eh? Sì, perché poi, allora, come ci siamo pensati la puntata di oggi, è che prima vi spiegavamo la loro visione, la vision, anzi, scusate, quindi come loro presentano, loro, questo loro, no? Come appunto gli organi ufficiali, la stampa, anche proprio il MISE stesso, insomma, le pubbliche Anche possiamo istituzioni, dire anche un'altra parolaccia, dilla. Confindustria. Confindustria, ecco, loro come ce la vendono? E poi volevamo un pochino invece spiegarvi come l'abbiamo capita noi, cioè tradurvi un po' tutta sta fuffa e spiegarvi co cosa invece secondo noi è davvero. Cioè, fondamentalmente, alla fine, per quanto sono riuscito a capire io, tra tutto quanto, loro spingono tantissimo. Se tu hai loro dicono, hai una miriade di dati, quindi riesci a capire al dettaglio quel pezzo lì, quanto ti costa, come sta andando e quanto tempo ci metti. E, oltre a questo, i tuoi dati vanno nel cloud, quindi i tuoi dati sono nel cloud, E beh, figo, il cloud fa fa figo. figo comunque, anche se, certo. E poi fondamentalmente dicono che tutta questa operazione qua è green perché hai questa miriade di dati, hai i dati nel cloud e quindi riesci ad essere efficiente e quindi a, diciamo, a lavorare meglio spendendo meno energia e quindi anche a produrre di più, Aumenterà la produttività, aumentare la produttività. certamente. Ovviamente, cioè se prendi una roba inefficiente e adesso hai dei dati nel cloud, è efficiente, adesso è Certo, green. è smart Ci anche. scrivi eco davanti Sì. Il e bollino risolvi. verde. Esatto. 4, 4, sì. 4, eco 4.0 Green, green. È come la smart. fiamme sulla macchina, no? Metti le Boh. fiamme sulla macchina, Vai vai più più veloce. veloce. Cioè, no, è vero, è E comunque è aerodinamico. molto più figa. Cioè, Sì, scusate. sì, sì. Io le vorrei. Vabbè. No, perché poi per leggervi anche. Cioè, io volevo anche proprio leggere i termini con cui se ne parla, no? Cioè, con il termine 4 punto, Industria 4.0 si vuole indicare la quarta rivoluzione industriale, resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni wireless a basso costo. Che boh. Con un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali, di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e interconnessi, tra parentesi, Internet of Things and Machines. Perché comunque se la fuffa, per essere tale ci devi buttare un po' di roba che non si capisce. Sì, è tipo la messa in latino, cioè non si deve capire. Vero, è proprio vero. È bello questo, infatti me l'ero perso l'Internet of Things, anche la messa in latino me l'ero perso sinceramente. L'Internet of Things, anche quest'altro grandissimo termine, super fuffone in realtà, buttato adesso nei grandi canali popolari, adesso è un po' sulla bocca di tutti, la buzzword, quando in realtà di IoT nel frattempo vanno fatte due distinzioni, che è IIoT, che è Industrial Internet of Things, che è tutta quella branchia di sensoristica e oggetti che chiacchierano fra di loro il 90% delle volte governati da un PLC, quindi un microcontrollore per un setting industriale, e poi c'è il classico IoT, che è quello domestico, che vanno dalle telecamere al citofono, lucchetti e bla bla bla, Al così via. Furby, non so se vi ricordate il Furby. Non so se il Furby è un internet, un IoT. Bastava attaccarlo a internet, se gli facevi il cavo di rete e diventava automaticamente Sì. In IoT. effetti poteva anche dialogare con la televisione perché poteva diventare un E poi telecomando. anche con l'altro Furby. È vero? Quindi volendo, dai. Niente di nuovo proprio mai, eh? Non so Cioè, che è anni fosse, vero. ma era Va. boh, fine 90, Sì, non lo dai. so. Wow. Che bello il Furby. Va bene, quindi, appunto, citavamo Renzi perché, Ah. lo so, te fai uno di quei tasti, tipo, il governo Renzi, Ah. Devi fare il cavallo. però quando si dice Renzi è tipo Frau Blücher, esatto, seguendo l'esempio di Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Giappone, possono essere una serie di misure per incentivare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica. Io continuo a citare appunto varie. Questa è Wikipedia addirittura perché siamo andati nel torbido. E, il progetto che ha stimato di generare una spesa tra gli 80 e i 90 miliardi di euro, perché comunque insomma, ma che poi è una stima per ora, perché poi probabilmente saranno molti di più, ha preso il nome di Impresa 4.0 ed è stato sviluppato e presentato per la prima volta in Italia nel 2016 dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Esatto, volevo il Quello suo. è tipo tipo Frankenstein o l'altro. Esatto, va bene. E quindi riassumendo. Facciamo una vellutata dell'Industry Sì, tre 4.0. punti. L'automazione, l'efficienza che si connette poi al green, a tutta la questione green, risparmio energetico Giusto, sì. e la centralizzazione sul cloud. Ok, ricordatevi questi tre, come direbbe Lucarelli, ricordiamoci questi tre punti, mettiamoli da parte, li riprenderemo Tra 6 o dopo. 7 anni. No, tra poco. Ora, prima di fare uno stacchettino musicale, magari così ci riposiamo un attimo, direi, se vi va, potremmo anche buttare l'ultimo cosa dell'ultimo grande termine di fuffa, che sono gli incentivi. Questo non è tanto fuffa, Che perché qui no, sono fatto. sordi. Cioè, vorrei Sordi. ricordare come il grande, libero, enorme mercato libero mondiale è tutto molto bello, ma se poi non ci stanno gli incentivi, alla fine non Dove si va? funziona un cazzo, Certo. e quindi gli incentivi poi sono sempre statali, quindi nostre tasche, che vanno a finanziare il libero mercato, perché se no il libero mercato non funziona. E questo è. Sì, questo è molto interessante, in effetti. Questo, sì. Un bel preambolo adesso alle percentuali che diciamo, vorrei dire. Sì, ci vuoi deliziare, eh? Ok, certo. Allora, le percentuali, uno direbbe, che cos'è? L'iperammortamento, il superammortamento, incentivazione, tutti quanti questi grandi termini alla fine per rimodernizzare tutta l'infrastruttura delle fabbriche, del reparto produttivo. E giustamente mettendo nuovi macchinari ultramoderni, cercando di poi farli funzionare ancora meglio quelle fabbriche, quindi aumentare la produttività e quindi il guadagno di quella fabbrica ancora, uno giustamente dice: perché non dare un iperammortamento del 250%? Questo significa che prendendo un macchinario, e cifre sono abbastanza alte, poi nel 2021-22 ce l'ho precise. Viene rimborsato il 100% della macchina, il restante 150% viene poi scalato dalle tasse. Questo Quindi. era dal 2017 al 2018 Sì. essenzialmente. Cioè, quindi per quell'anno lì fortunato, no, 2 anni, ora non so se sono completi, comunque sì, dal 2017 al 2018 praticamente ti beccavi uno sconto in fattura, no, non era sconto in fattura, era un, come si chiama? Cioè che te li rendono dopo, però insomma, Sì. Ti 250% danno anche il caffè. della spesa. In realtà bastava mettere un 20% di caparra. Metti il 20% di caparra e poi il resto ci pensa lo Stato. Eh E poi lo riprendi. Cioè, certo. poi sì, lo riprendi. Lo Sono prendi nei strano. denti, no? E, è interessante perché questo è per i beni materiali. E c'è anche tutta un'altra parte per il lato software, quindi beni immateriali. E così la formazione, che penso la formazione sia l'unico lato positivo, almeno secondo me, di tutta questa faccenda qui. Sì, cioè dipende, perché ovviamente non so se siete mai stati ai corsi di Ah, beh, formazione, cioè certo, sì, ovviamente. corsi di formazione come salire sulle scale, vabbè, che però non ti insegnano nemmeno come salire sulle scale, perché comunque posso capire, uno può farsi male, ma neanche quello, quindi sì. Cioè. Certo. No, e tra l'altro, sì, appunto, dentro la formazione ci puoi far passare di Qualsiasi tutto, cosa, sì. È quindi vero, è soldi vero. che proprio così vanno via come lacrime nel vento. Però, questo era fino al 2018, poi dopo dal 2018 fino al 2020 si sono un po' abbassati e poi si sono riulteriormente abbassati adesso. Esatto, perché c'è stato praticamente poi su tutto quanto questo filone si sono create delle aziende che fanno solamente di lavoro la parte di incentivazione, perché ci sono dei limiti più o meno ben specifici a riguardo, e quindi da quel momento in poi è diventato veramente ha ingranato ed è sceso dal 150% al 40% beni materiali e software 2018-2020. Nel 2021 è un 50%, e questo è interessante, sopra un investimento del 2,5 milioni di euro. 30% da 2,5 milioni di euro entro 10 milioni, e 10% da 10 e 20 milioni, no? Sì, hanno introdotto queste differenziazioni tra gli investimenti piccoli a loro detta, perché insomma siamo sotto i 2.000, cioè i 2 milioni e mezzo, insomma, e quelli medi e quelli grandi. Sì, esatto. Che già col 50% di 2 milioni e No, cioè mezzo. mi viene da piangere, vabbè, sì. 10% di 10 milioni. Eh sì. Beh, però scusate, cioè, certo, sono un sacco di soldi, ma comunque sia, cioè, noi partivamo da una situazione industriale arretrata praticamente all'anno zero, il Medioevo, e adesso siamo catapultati nel futuro. Cioè, adesso il paese Italia, come si chiama? La grande macchina Italia finalmente non so, varcherà le soglie del futuro grazie all'industria 4.0. No, mi è venuto anche un po' Sì, di sì, sì. milanese No, mentre cioè dicevo. sono... ma è Wow. normale, se quello sale. No? Sì. No, mi viene in mente, tipo, non so se avete mai visto il meme del tipo che usa il martello pneumatico, quello che è da attaccare al macchinario, no? Che ti fa lui da martello pneumatico, che lo Ah, usa ma sbattendolo a terra come se fosse un sì. martello normale, no? Più o meno, sì. Siamo a sto livello. Va bene, per esempio, perché cioè, Vogliamo. sì, tu c'è un esempio che io vorrei condividere. Guarda, seguo la traccia perché ci sono anche i gatti. Allora, E infatti, per quello che lo volevo. andiamo. Abbiamo questa fabbrica, ok? In questa fabbrica vogliamo mettere un PC, un server. Questo serverino ci serve per salvare dei dati e questi dati sono delle foto di gatti e li vogliamo salvare in locale perché nel cloud i gatti non va bene. No, poi ce li rubano. Esatto. Oddio, non ci avevo pensato. E quindi il software hardware costa diversi soldi, c'ha una spesa e l'azienda che fornisce quella soluzione con la messa in servizio dice non è negli incentivi 4.0 perché te prendi un server, ci metti le foto dei gatti, e, cioè, che, cioè sono belli però. E quindi cosa si fa? Qual è un modo? Si prende il server, si fa un contatto, un'uscita, per esempio quando si soddisfa una condizione che può essere fuori piove o più realisticamente un certo macchinario ha superato un certo consumo di energia, facciamo scattare un relè, un interruttore. Questo relè è collegato magari a una bobina di lancio per una sirena. Questa sirena quindi scatta e fa un allarme. Questo qui rientra già nel 4.0 perché tu fai un automatismo fra due macchinari. C'hai un server che elabora dei dati nel laboratorio, paghi un software. Quindi è un elaboratore con un software che attua un allarme. Quindi hai l'incentivo sull'hardware e il software. Poi fai anche una formazione al Certo. fotografo dei gatti per capire da che angolazione migliore prendere i tuoi gatti. Perfetto, ti C'è becchi IDP questo. perché la sirena poi è troppo forte, quindi dovete poi girare tutti con le cuffie, mi Giusto, raccomando, perché giusto. Oh, bravo, IDP, ricordiamoci. Importante. Certo. Molto bene, direi che questo più o meno è il quadro di come ce la stanno abbastanza vendendo. Svendendo anche, direi di mettere un pezzo. Allora, stiamo mettendo solo musica truce, ve lo diciamo. Violenta. No, Sì, ecco, lo sapete di chi è colpa. Forse non lo sa sì, lo sapete di chi è la. l'avete già sentita. L'ho già messa. I più attenti e le più attente riconosceranno questo brano, e gli altri no. A tra poco. Cappuccio, mascherino, occhiali da sole. Proteggi la tua identità dal controllore. Contro i lacrimogeni, le maschere da sub. E come hai visto, manna le gazzelle fanno l'estate boom. Sarà calda, non certo per il caldo. La miccia ormai alla fine e tra poco scoppia il mondo. Basta uno che dice, risolvi coi sorrisi. Riapro un po' la faccia, sai, le armi sono in crisi. Nascondi le tue impronte con i guanti. Incendia, brucia tutte ste volanti. Sai chi mi sta sul cazzo, ma da poco. O pieni ma non son quelli del fuoco. Gli amici che mi dicono tu stai troppo arrabbiato. È troppo che non vedono la merda che è sto stato. Io Il per primo. prossimo che dice dai usa un po' il buon senso. Gli sbardo un disco in faccia, lo lavo in un momento. Burioni mi fai schifo, schifo al cazzo. Ti spalmo di saliva, muori un po' di fascia sotto zero. Queste istituzioni si aspettano che fai sì, tutti zitti e buoni. Il prezzo della benzo si è calato un sacco. E tutte ste bottiglie piene in un attimo. Nessuno vuole farlo, se serve lo facciamo. Liste di proscrizione e vai con le aggressioni. Bailando. Cappuccio, mascherino, occhiali da sole. Proteggi la tua identità dal controllore. Contro i lacrimogeni, le maschere da sub. E come hai visto, manna, le gazzelle fanno boom. Cappuccio, mascherino, occhiali da sole. Proteggi la tua identità dal controllore. Contro i lacrimogeni, le maschere da sub. E come hai visto, manna, le gazzelle fanno boom. Accuccia, cani, accuccia, cani. Li mettiamo accuccia, cani. Bailando. Accuccia, cani, accuccia, cani. Li mettiamo accuccia, cani. Bailando. Sono un sadico bastardo. Se devo fartela pagare, divento dinamitardo. Eletica la parcheggio, giù, in un sotterraneo. Faccio esplodere tutto, tanti moti. guardo il fuoco dalla sdraio. Dai commenta su Facebook, rimarrai sempre un estraneo. Forse io mi scotto, ma tu hai anni che fai il loro gioco. Sono il delegato sindacale di chi non ha voglia di fare un cazzo. È un diritto, non sollazzo il sindacato di chi non fa un cazzo. Meglio non si fa sfruttare, bailando. Piuttosto di una vita salariata, meglio andare a rubare. Ormai ci vuole partita IVA anche per fare il cameriere. C'è un motivo per D'Antona e Biagi. Sono le nuove VR, mica i tre magi. Rubare lo so fare, l'ho imparato in 30 anni d'Italia. Orgoglio nazionale, siamo i king nel rubare. A chi cosa, quando, come, anche per delinquere ci vuole etica e morale. Bailando. Ma non lo farei mai a un poveraccio. Mi sentirei una merda, uno straccio. Ma non chiamarmi Robin Hood in calzamaglia. Anche se con gli skinny jeans vado in battaglia. Cappuccio, mascherino, occhiali da sole. Proteggi la tua identità dal controllore. Contro i lacrimogeni, le maschere da soap. E come hai visto, mana, le cartelle fanno boom. Cappuccio, mascherino, occhiali da sole. Proteggi la tua identità del controllore. Contro i lacrimogeni, le maschere da soap. E come hai visto, mana, le cartelle fanno boom. Accuccia, cani, accuccia, cani. Li mettiamo accuccia, cani, bailando. Accuccia, cani, accuccia, cani. Li mettiamo accuccia, cani, bailando. Accuccia, cani, accuccia, cani. Li mettiamo accuccia, cani, bailando. Accuccia, cani, accuccia, cani. Mettiamo a cuccia cani, bailando, bailando, bailando, si accuccia cani, bailando, bailando, bailando, si accuccia cani, bailando. Radio Wombat, Lovelace. Ovviamente, come sempre, ci siamo dimenticati di dare un po' di estremi della nostra radio. Il sito, prima di tutto, radiowombat.net, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, e poi il nostro splendido pad della diretta, direttawombat.vado.li. E tra l'altro, dicevamo, sul pad magari scriveteci anche eventuali richieste di argomenti, di curiosità che avete, che ne so, ma ci chiarite, noi siamo tipo l'oracolo, no? Quindi non lo so, ci chiarite quella cosa di cui tutti parlano, noi non ci abbiamo capito niente, oppure, ma questa cosa qui, però non sugli UFO e sul, perché quella è un'altra trasmissione. No, no. No. No. Però se chiedete qualcosa che sia esplicitamente sì o no, io posso interrogare l'oracolo e poi ve lo ridico in diretta, proprio così, Okay. Mi raccomando, solo sì o no. Funziona così l'oracolo. Va bene. È un'intelligenza artificiale, quindi d'accordo. Non funziona, ovviamente. Giusto. Va bene. E, quindi questi erano i nostri contatti. Torniamo alla questione industria 4.0 di cui parliamo oggi. E a questo punto vi abbiamo parlato di tutta la fuffa che ci buttano addosso. Che cos'è per davvero però l'industria 4.0? O almeno che cos'è secondo noi poi alla fine della fiera? Allora, partiamo un attimo da quei tre punti principali. Le andrei un attimo a decostruire, più che mai per farci un attimino un tappeto su cui poter poi costruire un po' il discorso. Perché fondamentalmente i punti forti sono, cioè, analisi dei dati delle macchine, dell'ambiente e della cabina elettrica attraverso dei sensori, lo storage nel cloud, le automazioni di operazioni tra macchine, usando i dati sopra e intelligenze artificiali e tutte le belle cose. Ora, tutto questo qui dovrebbe rivoluzionare l'industria. E per fare un esempio un attimino di come funzionerebbe poi il sistema per davvero, possiamo far finta che siamo in una conceria. In questa conceria c'è una pressa per disidratare le pelli. Va a pressione, va giù, schiaccia le pelli e toglie l'acqua. Uno dei motori di questa pressa si rompe, va in allarme. C'è un sensore lì sopra che rileva effettivamente il problema e va a un PLC, e questo segnale viene letto da un PLC, da questo microcontrollore dopato industriale, che vede che c'è un allarme e butta su una sirena. E tutto questo sistema qui viene visto da un software a monte che si chiama SCADA, che è un software per la supervisione dei processi industriali. E lo SCADA fondamentalmente vede sto misfatto e manda una mail al manutentore, al responsabile dell'impianto, ma nello stesso momento di soppiatto lo manda allo Zimbabwe. chiedendogli cortesemente di arrendersi, molto cortesemente, e cedere il potere ai gatti. Come già sappiamo, i gatti sono i poteri forti. E fondamentalmente questa è l'industria 4.0. Perché ovviamente il manutentore era in una barca in mezzo all'oceano a godersi le sue vacanze, e gli arriva una merdosissima email che non apre e ha risolto il problema. Esatto. Certo, certo. E apre un ticket. Apri un ticket. Certo, comunque il passaggio ci va. E questo ticket poi dovrà essere smistato in questo modo. Allora, tutta sta costruzione, questo castello Lego, c'ha un senso, perché tu comunque c'hai un allarme, c'hai un problema, ti viene comunicato, è tutto mezzo automatico, almeno io un'email ce l'ho, un segnale ce l'ho, un qualcosa mi arriverà prima o poi. E solamente che è un po' la lacuna di tutto il discorso che viene proposto dell'industria 4.0 è in dei fattori fondamentali, che sono non solo innovazioni tecnologiche, perché sono protocolli datati, ma non per questo non funzionali, e quindi testati, sicuri, ma che esistono da molti anni. E per esempio questi protocolli sono il Modbus o l'OPC-UA, c'è cioè il Profibus, lo Zigbee, sono tutti quanti protocolli per ti lanciano dei pacchetti. Questi pacchetti poi vengono sempre raccolti da altri dispositivi, non è niente di straordinario, diciamo. E la parte che poi pecca effettivamente è la parte di formazione del personale, perché io ho, ma non nel senso che non avendo una conoscenza completa del macchinario, per esempio, quel motore lì, qual è il suo range di efficienza, non sapendolo ma avendo 25.000 dati, questo mi provoca confusione e soprattutto non li so leggere. Se io non li so leggere non c'ho quell'efficienza che viene detta, ed è proprio qui un pochino dove pecca un po' tutto quanto, no? Perciò l'industria 4.0 cerca di portare, trasformare, rimodernizzare gli strumenti, ma non portare a livello più alto, portare a una conoscenza, un valore reale alle persone. Cioè è un po' questa qui la lacuna che... Sì, che e poi a mio avviso se partiamo dall'idea che, diciamo, in qualche modo possa velocizzare almeno il processo di riparazione, ad esempio, no? Perché c'è un processo molto veloce in cui viene avvertito subito il personale che c'è un problema. Mm-hmm. Ora, questa cosa poteva essere risolta anche banalmente se c'è una sirena e suona la sirena e dice ok, cioè questo macchinario è rotto, ma se il manutentore, invece di averlo licenziato per aver innovato la tua industria, ce l'avevi lì, l'avevi già risolto. Cioè il punto è che il 90% delle volte si spende soldi per complicare i processi invece che semplificarli, avendo l'idea di invece semplificarli, innovarli e così via. In realtà il 99% delle azioni sono e restano comunque umane da questo punto di vista. Mm-hmm. Quindi il sensore ti può aiutare fino a un certo punto, cioè fa il ruolo del sensore. E con tutte le mille problematiche può avere un sensore, pensiamo a un sensore di temperatura che misura magari l'umidità relativa, e cambia tantissimo. Se uno non sa lo schema di come è costruito quel sensore, non sa che misurazione tira fuori alle diverse temperature, ad esempio. E qua si rientra poi nel un altro punto dell'industria 4.0, è proprio la manutenzione predittiva. Questo è un terminone usato su qualsiasi, no, manifesto, però roba pubblicitaria, dove tu vedi brochure predittiva, perché ti dice: io avendo tutti quanti questi dati ti posso dire in anticipo quando si romperà. Però se tu manutentore non sai effettivamente, o il manutentore non c'è proprio, non puoi utilizzare questo dato. Sì, ma poi non solo, cioè mettiamo che abbiamo una pressa, come dicevi prima. Mm-hmm. Cioè, c'è solo la pressa, c'è il manutentore per la pressa. Ora, se ci sono altri 15.000 sensori, schede di rete, cavi di rete, PLC, ci deve essere praticamente un manutentore che si occupa del PLC, il manutentore che si occupa del software, il manutentore che si occupa del sistemista di rete e così via. In realtà è solo complicato quello che era un sistema semplicissimo, che il ruolo che doveva fare era strizzare quella pelle, e quindi cioè, la percezione è che sia più moderno. In realtà probabilmente nella maggior parte del tempo hai risolto avendo meno personale, e questa è una delle cose che poi si traduce nell'industria 4.0, cioè ho meno personale fisso in azienda, ma ho più personale continuamente a cottimo da chiamare nella necessità. Quindi non fa altro tutti questi sensori che avvertirmi: ehi, guarda, mi servirà per un'ora di tecnico, e gli paghi quell'ora. E questo povero Cristo vola da, da un posto all'altro facendo mezz'ora alla volta per riparare una cazzata, o anche no, però insomma tendenzialmente... No, Sì, questo fa, tra l'altro, fa il pari con, cioè, mi viene in mente il paradigma, è sempre lo stesso che si applica a vari campi, l'abbiamo visto molto bene, un esempio sotto gli occhi di tutti, sulla questione sanitaria, quando Immuni sembrava la panacea che ci traghettava verso la fine della pandemia, perché te, di fronte a un problema che era squisitamente umano, ovvero un problema di risorse date alla sanità pubblica che mancavano, che erano state devastate negli anni, allora tu dicevi: faccio una bella app per il tracciamento. Poi dietro a questa app, dietro al telefono, non c'era nessuno, non c'erano le risorse umane, non c'erano le persone che dovevano poi occuparsi del problema per davvero. Sta un floppone, direi. È palese che è stato un flop, ma proprio nella concezione originaria, non solo per come è stato fatto, proprio perché era proprio l'idea di fondo che non tornava, così come non torna in generale l'idea che se tu investire una valanga di soldi per comprare un sacco di macchine, poi fondamentalmente gli incentivi servono a questo, a fare sì che un sacco di aziende, siccome poi forse non l'abbiamo specificato, però chiaramente questi meccanismi di incentivi funzionano che te prendi magari compri una macchina che ha questo incentivo e con questa riesci, con l'acquisto di questa macchina riesci a trainare anche l'acquisto di altre macchine, quindi alla fine ti ricopri di macchine che probabilmente non ti servivano manco, che non hai manco idea bene di come funzionano e forse in fondo rimango lì a prendere polvere. E tutta questa roba poi certo che non funziona, o se funziona poi ha dietro una grossa lacuna, perché non c'è nessuno che la sa far funzionare, o comunque non, sì, cioè comunque, non è lì il problema. Certo, l'hai complicata, mettila così, cioè anche se ci fosse del personale specializzato, comunque ad esempio se hai un macchinario che dovrebbe predirti una possibile rottura di un'altra parte del macchinario, in realtà non sai se è il sensore che ti sta dicendo che sballa, e quindi in realtà la macchina sta andando bellissimo, ma è proprio il sensore che dovrebbe dirti la rottura che si sta rompendo. E questo non lo puoi sapere finché non c'è un tecnico che va lì, fa tutte le sue revisioni, guarda le centraline, guarda mille robe, perde un sacco di tempo, e poi ti cambia una roba da un euro e risolve la roba. Però, sì, però tu in azienda questo tecnico non ce l'hai. Ovviamente. Questo infatti è un altro dei grandi problemi, è... Non solo che il tecnico non c'è, quindi non è assunto, quindi non è pagato, quindi è a cottimo e lavora di merda e va avanti e indietro, ma nel momento in cui ci dovesse essere uno sciopero, una unione di lavoratori, quel tecnico che non è di quell'azienda non è una persona che si unirà allo sciopero, è una persona che si sottrarrà alla lotta di quella specifica azienda, ad esempio, perché lui non ne fa parte. Quindi serve anche a dividere i lavoratori in sottolavoratori ancora più, in classi ancora più piccole, che non possono solidarizzare. Sì, di questo parleremo poi approfonditamente nella parte successiva, in cui vi racconteremo un po' tutto quello che riguarda il mondo del lavoro e perché questa famigerata industria 4.0 impatterà presumibilmente molto sul lavoro. Sono state fatte delle previsioni abbastanza da incubo e quindi ne parleremo poi successivamente. Non so, in generale queste questioni poi si legano anche a tutte le questioni sulla sicurezza, l'abbiamo detto altre volte in trasmissione sulla questione dello spauracchio della sicurezza informatica, si è creato un mercato abbastanza pompato e quindi chiaramente anche lì viene affrontata la questione in modo sbagliato fondamentalmente, e molto prima lo dicevi giustamente, ad esempio la questione del cloud, il mettere tutto sul cloud dà questa sensazione del tenere finalmente i dati al sicuro. Io non li tengo in azienda perché in azienda poi mi fanno un ransomware perché io ho le password scritte sul post-it 1, 2, 3, 4, esatto, e quindi mi fanno il ransomware, quindi tengo tutto nel cloud perché nel cloud sì che sono sicuro, e questo è industria 4.0, questo ci traghetta nel futuro. In realtà semplicemente stiamo consegnando tutto questo nostro futuro ad Amazon e alle varie nomoni. Sì, vari nomoni che hanno di base stanno comprandosi tutto questo, e gli viene ceduto con incentivi pubblici fondamentalmente. E ovviamente si ritorna al solito discorso, ricordiamoci cosa hanno comprato prima. Cioè, prima di tutto compri le infrastrutture, quindi loro si sono comprati prima i cavi, i server, quindi la roba che costa soldoni, dove poi voi potete metterci i vostri dati e ci fanno soldi anche con quelli, e ve li rivendono poi alla fine in sotto forma di pubblicità praticamente, quindi sì, ci fanno soldi due volte. Sì, anche 5 o 6, sì, probabilmente. Però... sta ottimista. Sì. Cioè, poi a pensarci sul lato cyber security, tu effettivamente ti stai mettendo una cifra, ma proprio una quantità spropositata di piccoli server con indirizzi IP, con web server in giro per la fabbrica, per l'azienda, con le password, magari quelle del manuale. Quindi sì, cyber security il cloud, ma poi lasci le password classiche e è un'altra falla. Non ci avevo pensato. Sì, è pieno. Era. Cioè, comunque tiri la fune da un'altra. Sì, no, ma anche perché, cioè, oggettivamente, la classica password scritta, no, sotto il router, è ovvio che, cioè, se sei in un'azienda dove ci sono dei dipendenti o c'è un tecnico, o comunque c'è delle persone strane che devono accedere a quel router, la password la devi tenere visibile. Cioè, finisce che per non romperti i coglioni la lasci in un certo senso visibile... Ma tanto più quando una tecnologia viene ammantata di questo aura di così di misticismo, per cui è sempre difficile, complicata, e quindi tu di fatto hai in casa delle tecnologie che non padroneggi, che non sai manco che sono, non sai minimamente cosa fanno, e devi chiamare tecnici esotici che vengano con i nomi strani, che vengono a sistemartele. È chiaro che te le password gli dai tutto, gli dai anche le chiavi di casa, cioè, perché sei una specie di dio che vieni a sistemarmi una roba di cui io non capisco niente. Sì, sì, no, questo è classico, anche nelle truffe telefoniche fanno, cioè dopo un po' magari gli chiedono, sì, però mi potrebbe dare la password del suo conto corrente, no, perché ci serve per fare questa visura, sa, e la dai, no, perché dici, boh, non lo so, magari serve, cioè essenzialmente è che ovviamente non sei a conoscenza dell'infrastruttura su cui si basa tutto... quello che c'è dietro, e a noi sta a cuore la sicurezza delle industrie italiane. Sì, tantissimo. Facciamo questo discorso per tantissimo. Noi stiamo dando spunti a tutti quei gruppi che finiscono con Evil per appropriarsi di un po' di cose, così magari satanisti, quindi stai parlando. Sì, sì, okay. I satanisti dell'internet, non so, poi magari se per caso così riuscissero a trovare qualcosa da Leonardo, non lo so, di qualche azienda un pochino grossa che produce Bene, armi. Non ci vogliamo nell'apologia di reato, e anche perché il prossimo pezzo che tu hai scelto probabilmente ci procurerà un paio di denunce, quindi direi di rimanere sul 2 denunce a puntata, che dici? Sì, sì, no, no. Anche 4C, siamo in 3. Ah, 2 a testa, siamo sì. 6, dai. Sei. Ma dici la media o totale? Effettivamente finora non abbiamo beccato quasi niente, penso, quindi oggi ci possiamo sdare. Dici? Ma sì. Ah, si fa un po' gebuca quella... Ma sì. Sui chip poi quelli stanno lontani, non ci possono dire nulla. Ma sì, ma poi non hanno mica capito niente di che No, infatti. Va bene. Quindi un altro pezzettino musicale, questa volta come si chiamano, che non li capisco. 66CL. Ok. 66 centilitri. Bene. Si chiama Mario Draghi. Check. ci scrivono sul pod che in effetti ecco perché non vanno comprate le stufe a pellet di quelle nuove. Quante perle di saggezza, quanta verità in queste parole. E comunque quante sì, saldature. Quante saldature, quante bestemmie sulle nuove stufe. Tutte le volte che comunque vedete un chip, una scheda elettronica su un elettrodomestico, paura, è paura, un pericolo. Paura. Sì, ma questa è un'altra puntata, ecco. E, quindi in realtà abbiamo accennato un pochino alla questione del lavoro. E perché una delle grandi pubblicizzazioni che fanno, uno dei grandi slogan, è il fatto che l'automazione, l'industria 4.0, l'automazione aiuterà moltissimo il mercato del lavoro e aiuterà l'occupazione. Ora, sinceramente è veramente difficile capire in che modo potrebbe farlo, cioè proprio l'automazione e i lavoratori, cioè non lo so, è da Charlie Chaplin, da... No, il mercato del lavoro penso intendessero tipo il mercato dell'auto usata, nel senso forse, era tipo sì, che vendono i lavoratori. Sì, era... questo può darsi. Tipo, no, no. Sì, è intendevano quello. Probabile. No, perché cioè, dai tempi di Lud, cioè comunque nel senso questa cosa che i robot, l'automazione, vi ricordate i telai? Insomma, partiva da lontano sta cosa che te emetti i macchinari automatici e il lavoratore, ciao. Ciao. Comunque vorrei ricordare che gli egizi hanno fatto le piramidi. con le loro mani. Tutte a mani, vero. Progettate da gatti. Da gatti. Da gatti. E da dio cani. Sì, no, perché il problema comunque è che evidentemente no, le nuove generazioni non hanno voglia di fare niente, giusto? Sì, sì, sì, confermo. Cioè. Infatti, infatti, assolutamente confermiamo. Tema del lavoro, quindi essenzialmente quello che sta succedendo, che succederà, perché poi insomma le cose purtroppo appunto abbiamo visto in tempi lenti, perché noi ce la prendiamo sempre calma, però comunque sia i soldi girano e quindi questi investimenti verranno fatti evidentemente e di fatto. E il mondo del lavoro sta già cambiando, insomma, non da ora, l'abbiamo già visto, parlavamo fuori dai microfoni di logistica, di quanto è cambiato tutto il mondo del lavoro collegato alla logistica, all'automazione anche su quel fronte, insomma, è già da un bel po' che vediamo questi cambiamenti. Adesso li stanno proprio, come dire, sottolineando. E tra gli effetti che ci sono evidenti di questo meccanismo ci sarà innanzitutto la velocizzazione dei ritmi di lavoro e una dipendenza dai robot, chiamiamoli così, comunque dalle macchine, sia per quanto riguarda le metriche, cioè i ritmi proprio e gli stessi movimenti, cioè in qualche modo saranno le persone che si dovranno adattare alle macchine e non viceversa. Qui prendiamo l'esempio brutale di, appunto, si diceva il classico magazzino di Amazon che abbiamo ormai imparato a conoscere tristemente, cioè lì è chiaro che i ritmi sono dettati dalle macchine, perché non sono ritmi umani, perché un ritmo umano prevedrebbe dei tempi di pausa, di riposo, un rapporto con gli altri colleghi, che sia anche soltanto un attimo, due chiacchiere che ti scambi, tutto ciò non è possibile in dei ritmi che sono fondamentalmente ritmi di macchine, quindi sono molto più veloci, sono... non stop, inarrestabili. Assolutamente, anzi, il fermare una macchina appunto fa scattare 16 allarmi e altrettanto succederà con un essere umano. Un essere umano che si ferma è un grosso problema perché... Produttività! Sì, sarà un'enorme catena di montaggio, anche qua niente di nuovo, però ecco, forse ancora più velocizzato rispetto a quello a cui eravamo abituati e soprattutto in decenni di lotte si era riusciti, almeno in alcuni casi, a abbassare un attimo il ritmo di lavoro, magari a diminuire un minimo la catena, e ora il contrario, si tenderà a aumentarla parecchio. E una tendenza, direi ontologica, l'abbiamo detto prima, alla sostituzione dei lavoratori umani, cioè automazione è esattamente il contrario di lavoro umano, cioè è evidente, certo, che ciò che viene reso automatico attraverso una macchina presuppone il mandare a casa un lavoratore che prima faceva quel lavoro. E, di base saranno supporti alla macchina, cioè il lavoratore sta lì a aiutare la macchina. Sì, quello che si dice è che verranno il lavoro pesante, che questo veramente da Asimov in giù veramente ce la rivendono, il lavoro pesante lo faranno solo le macchine, invece gli esseri umani dovranno fondamentalmente solo supervisionare con un lavoro più qualificato. Ora, sì, questo lavoro più qualificato, spostare pacchi. Sì, perché in realtà non si capisce bene poi questa qualificazione davvero, cioè non ci crede e non è mai successo e mai succederà che un operaio che prima faceva un lavoro in serie meccanico e molto ripetitivo, tu lo licenzi da quel ruolo perché quel ruolo lo fa una macchina e però dopo ti va a fare l'ingegnere, cioè dai, non ci crede nessuno. Non succederà, semplicemente quell'operaio se ne andrà a casa. Però può essere, si laurea in ingegneria. Perché ha più tempo libero. E sta a casa. Sì. Perché è disoccupato. Perché però, sì. Però è disoccupato. Però sa un sacco di cose. Certo. Sì. Succederà un po' questo. E quindi fondamentalmente quello che succederà sarà un'espulsione dei lavoratori cosiddetti non qualificati e sarà un'espulsione massiccia. Si parla di cifre veramente imponenti. Sì, e... però ad esempio secondo me sul lavoro non qualificato ci sarà una di quelle classiche clausole appunto di ricambio veloce, tipo Deliveroo, tipo questa roba, che comunque non è un lavoro qualificato, devi fare consegne, però lo fai per un periodo, prendi 2 lire, ti rompi il cazzo, smetti, viene un altro perché non hai bisogno di aver studiato, di fare chissà cosa, vai lì, rifai consegne e va avanti il prossimo. In questa maniera ovviamente si rigenera sempre il discorso di prima, non ci sarà coesione, non ci sarà possibilità di aggregazione e di aiuto. Sì, e questa cosa qui avviene anche proprio all'interno dei processi di automazione di cui ci si fa tanto vanto, nel senso che lo spezzettare la produzione di un determinato prodotto in 700.000 piccoli passaggi, perché comunque sia quello che si... cioè il nocciolo della questione molto spesso è mettere i dati nel cloud. Perché si mettono i dati nel cloud? Perché così... io posso spezzettare la produzione e quel lavoro invece di farlo tutto in una fabbrica, per esempio, in un luogo fisico, può venir fatto un pezzettino che ne so, in India, un altro pezzettino in Bangladesh, un altro pezzettino in Romania, e tutti lo possono fare perché il nodo centrale, i dati a cui attingono tutti, stanno nel cloud, quindi tutti ci accedono. In questa maniera io ho sparpagliato, grazie al cloud, il lavoro, ho parcellizzato il lavoro in 1000 pezzettini. In questa maniera i lavoratori ovviamente appunto sono sempre più sparpagliati, magari saranno ognuno nella propria casa, saranno da remoto, saranno lavori sempre meno qualificati, sempre più piccoli e con sempre meno bisogno che chi fa quel pezzettino conosca gli altri pezzettini, sia gli altri lavoratori ma anche il prodotto finale, il famoso esempio del captcha, degli schiavi gli schiavi captciari poi che stanno dietro a risolvere i problemi del captcha. Cioè effettivamente immaginiamoci un mondo che va sempre più in questa direzione, il mondo del lavoro che va sempre in questa... Sì, cioè come nel mondo economico ci sarà un'estremizzazione, la parte diciamo competente dal punto di vista tecnico, ingegneristico sarà poca e molto ben pagata e molto ben vista e mantenuta, e poi una marea di persone invece sfruttate che non hanno un lavoro particolarmente diciamo, come si può dire, ora non mi viene, ma insomma qualificato, mm-hmm. Okay, e comunque saranno meno di quelli che sono negli anni 70 appunto, cioè comunque anche la parte di lavoratori meno qualificata si è ridotta sempre per via dell'IoT e si ridurrà probabilmente, nonostante si sono appunto aperti una marea di diciamo lavori che tra virgolette prima non c'erano. Si può dire questo, cioè che è quello, erano i dati che si leggeranno tra un po', che ovviamente fanno sì che ci siano della creazione sì di posti di lavoro, ma della perdita di altri posti di lavoro. E ovviamente i dati più blasonati sono quelli della creazione, ma non danno mai quelli della perdita, nel senso che comunque... Eh sì, ovviamente... perché è chiaro che chi produce dei sensori vedrà degli incrementi, cioè lavorerà di più, è evidente, cioè i riparatori appunto di cui parlavamo prima lavoreranno di più e ce ne saranno di più, eh sì, grazie a cazzo, però tutti gli altri, e sono molti di più, ciao proprio. Cioè, qui parlavano, mi sa che, cos'è, Wiki questa? Non mi ricordo. La fonte, qui era Wiki. Dati. Wikipedia dice, sì, che parla di una ricerca, per dare un po' di numeri appunto a quello che vi stavamo dicendo, parla di una ricerca, cita una ricerca presentata al World Economic Forum, quindi insomma non proprio un giornaletto di underground, una fanzine, e una ricerca intitolata The Future of the Jobs, dove chiaramente sono dati così un po' a previsioni che hanno il senso che hanno, però giusto per dare un po' il senso di quello che loro proprio si aspettano, sì. È che nei prossimi anni, dice, fattori tecnologici e democratici influenzeranno profondamente l'evoluzione del lavoro, la tecnologia del cloud e la flessibilizzazione del lavoro hanno iniziato a influenzare le dinamiche già a partire dal 2016, parlavamo prima, ma cioè, anche un po' prima, sì, in realtà molto sì. E secondo questo studio l'effetto sarà la creazione di 2 milioni di posti, nuovi posti di lavoro, ma contemporaneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo quindi di oltre 5 milioni di posti di lavoro. Il gioco delle tre carte, invece di dirti che spariscono 5 milioni di lavoro, esatto, ma no, ne aumenta di 2, ma fa via di 7, esatto. No, niente, era okay. Così per dire. E quindi, per esempio, parlavano poi nel dettaglio, l'Italia ne uscirà, secondo questo studio, che lascia un po' il tempo che trova, però insomma, ne uscirà con un pareggio, circa 200.000 posti creati e altrettanti persi, secondo pareggio loro. Fa sempre un po' strano e un po' comodo a tutti. Mi sembra una cazzata, infatti, questa pareggio, clamorosamente una cazzata, ma vabbè. Ma secondo me solo perché non si fidano che noi faremo davvero l'industria 4.0, ma quindi sì. Cioè, loro dai, tanto non è che davvero la fanno. Il mio cugino. E a livello, per esempio, hanno studiato proprio i gruppi professionali, dice, le perdite in questo senso si concentreranno nelle aree amministrative, chiaramente, perché ovviamente se tu metti tutto nel cloud e automatizzi, una delle prime cose che verranno automatizzate sono proprio le questioni di gestione, la burocrazia, le faccende... I bellissimi software gestionali. Mamma mia, che tanto ci fanno penare. Che belli. Quelli lì, altro, non c'è più bisogno di ragionare, cioè Google che mi fa i conti. E anche nell'area, appunto, aree amministrative della produzione, rispettivamente 4.8, cioè 4.008.000 di posti di lavoro nell'amministrazione e 1.600.000 di milioni di posti, appunto 1.600.000 di posti nella produzione. E secondo loro verranno compensati parzialmente, da quello che si diceva appunto molto parzialmente, nell'area finanziaria, perché chiaramente qui appunto girano i soldi, il management, l'informatica e l'ingegneria, quindi se dovete andare in sblindantani, sì, esatto, e venditori di fuffa assai. Quindi sì, questo è un po' la questione. Più o meno direi che sul mondo del lavoro ci siamo, vi abbiamo forse già abbastanza terrorizzato, e l'altro grande tema di cui vi vogliamo parlare dopo però un pezzo musicale direi è quello della questione green, cioè sarà anche un po' l'ultimo degli aspetti che andremo a sviscerare, appunto tutta questa fuffa che ruota intorno al appunto al come si chiama? Efficienza. E abbiamo una domanda dai nostri ascoltatori nel diretta Wombat Pad. Oh là là. E ci chiedono: è possibile che ci sia una saturazione di persone nei lavori che non sarà possibile automatizzare? Bella domanda. Io non l'ho capito. Cioè, sblindantani? Per esempio, no? Dice l'artigiano. Mi immagino il carpentiere, l'artigiano col manico, come si dice, no? diventeranno super elite, diciamo, saranno dei lavori estremamente ricercati, per questo si intende forse? Non so bene anch'io. Penso che chieda poi tutta quella parte che ha perso il lavoro, quelle persone cercheranno delle alternative, magari nella carpenteria, e quindi si saturerà No, aspetta, quel. facciamo così. Ecco, guarda, ristanno scrivendo perché non abbiamo ben capito la domanda. Sì, perché in questo senso non avrebbe, cioè purtroppo non credo che funzionerebbe così, cioè non credo che uno che lavora in catena di montaggio poi lo licenziano va a fare il falegname, cioè magari, ma insomma, però non spero, cioè proprio mi piacerebbe, ma non credo. Allora, il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice la sta riformulando. Nel frattempo che ci pensa, noi mandiamo un po' di musichetta così gli diamo il tempo di riformulare. Noi sicuramente consulteremo l'oracolo e gli risponderemo prontamente, soddisfacendo ogni sua richiesta. mia nonna dentro un bosco, le metto nella vagina un poster di Vasco. In questo posto perdo il controllo, sono Max Pezzali con un teschio sul collo e non ti mollo. Sono un sergente di metallo su un cavallo bendato, sono il mandante delle stragi di Stato. Non sono in grado di mantenere equilibrio, guidandomi è rimasto in mano il manubrio della mia panda. Mio padre odia la mia banda, io ho menato e sputato in faccia una bevanda alla standa. Oggi ho organizzato 6 attentati, tutti falliti. Giro con un clan di drogati accaniti, antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. Cristo in croce ad ogni angolo di strada, la gente si è abituata e non ci bada. Vivo la mia vita, anche se se n'è andata. Puttane per strada con un prete idolatra, senti chi è qui che rifiuta ogni compromesso. Chi dorme sull'acciaio, niente materasso. Adesso voglio andare a un congresso per lanciare tutti gli insulti che ho represso. Ho scommesso che avrei pestato Paola e Chiara, che mi sarei masturbato dentro una bara. Sto in gara contro me stesso e contro la parte di me che vuole vendetta ad ogni costo. Antagonista me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, lo so non ti piaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. Conosco, giuro guerra allo Stato, ma sono già morto, ieri mi sono impiccato, isolato nel mio mondo, così non mi confondo con le merde che hai attorno e sprofondo nel mio abisso, ti appaio in sogno in braccio a Gesù Cristo, se insisti costo disco, sposato col rischio, ceno al buio pesto, con candele nere e un grande teschio. Del resto, quando sto bene ho il mal di testa, invoco in tuta mimetica alla tua festa. B-boy sotto inchiesta, pan con la cresta, spacco con la testa una finestra. Antagonista me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. E abbiamo anche messo tu nonna alla fine, perché comunque ci serve più tempo per pensare a cosa rispondervi. Ci abbiamo pensato, perché abbiamo riformulato. Sì, sì, abbiamo, allora, prima di tutto ci abbiamo pensato tra di noi. Uh-huh. E siamo arrivati alla risposta. Aspetta, perché ci hanno riformulato la domanda. Leggiamo anche la domanda. Sì, sì, sì. Beh, chi vuol leggere? Nel senso, si creeranno nuovi lavori o ci saranno magari più persone che cercheranno occupazione per la stessa categoria di lavoro? Beh, a questo punto secondo me entrambe le cose succederanno. Non so, non so. No, secondo me non ci saranno. O forse nessuna delle due. Secondo me ci saranno meno lavoratori per la stessa categoria di lavoro, ma ci saranno più lavori diversificati, ovviamente di merda, ovviamente temporanei, molto temporanei, stagionali o robe... Neanche stagionali, è semplicemente sì. Last minute. Temporanei, sì. Sì. Sì. Mm-hmm. Sì. Sì. Però... volevi... No, ma penso che proprio sì, la concentrazione poi su quei lavori, la gig economy, no? Esatto. Cioè, quell'altra fuffa sì. Che si dice. Comunque abbiamo chiesto anche all'oracolo di Delfi... Sì, che forse è meglio di noi, perché... Sì, che grazie alla sua enorme intelligenza artificiale gli abbiamo solo chiesto se nel futuro ci saranno più lavori e lui ha detto expected, quindi... Sì. Si sì, pensa perfetto. Di sì. Sì. Sì, sì. Quindi insomma, stai tranquilli e tranquille. Tranquilli. Andrà tutto bene. L'intelligenza artificiale ci garantisce. Ci rassicura. Sì. E quindi direi arriviamo all'altro punto, l'ultimo di oggi, di questa puntata dedicata all'industria 4.0. Mi viene da dire sempre industria 0.0, perché forse non proprio. Lapsus un po', eh? Industria fine della corsa, la potremmo chiamare. Bene, che è il tema del green, della fuffa green e del consumo delle risorse, tema che ci sta molto a cuore a Lovelace, spesso appunto ne parliamo, ne parleremo. E per farlo, per iniziare, per introdurre un po' questo argomento che ha anche a che fare, tra le varie cose, ha anche a che fare con la blockchain, avete sentito parlare di questo termine orribile, abbiamo chiesto un parere a una persona un po' più competente di noi in materia che ci spiegherà un po' meglio di cosa si tratta. Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain con questa adesione alla partnership europea e per spiegarla ai cittadini, per spiegare ai cittadini italiani e non dell'importanza di questa adesione, è come se d'ora in poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre. Il Made in Italy lo potremo proteggere dalla contraffazione con il protocollo blockchain. Che bello. Tutti noi vorremmo avere sempre un notaio con noi Ma sulle spalle. infallibile. Oddio, che ansia! Eh sì, questa ve la ricorderete, il famoso pomodoro di Di Maio, dove ci raccontava appunto della blockchain. E sì, cioè che allora, ad Che esempio, poi un'altra. ora, appunto, non vorremmo proprio parlare solo della blockchain, però un po' c'entra. No, no. Cioè, sì, uno dei passaggi chiave della nuova industria 4.0 in generale è il passaggio appunto alle nuove tecnologie. Nuove tecnologie, come avevamo già affrontato nella prima puntata di Lovelace, spesso vogliono dire creazione di roba elettronica, di chip, di controlli e robe varie. Questo significa spesso, anzi sempre direi, estrazione di materiali, di minerali che normalmente e che insomma fino a poco tempo fa non utilizzavamo, non estravamo, almeno non in maniera così massiccia. Quindi essenzialmente stiamo passando in un'epoca che utilizzava maggiormente il petrolio come fonte di energia a una che ne utilizzerà probabilmente qualcos'altro, che però ancora dipende dal petrolio e che però probabilmente nel futuro questa cosa cambierà. Quindi tutta la sensibilità del green e dell'eco passa dal controllare che tutte le filiere di nuova costruzione di ogni cosa siano effettivamente green, nel senso che è bella l'elettrificazione, ma se poi l'elettricità la produci con sfruttamento dei bambini minorili che li fai pedalare nella Bambini bicicletta, minorili. Sì. che li fai pedalare in una bicicletta per 50 anni della loro vita e restano bambini minorili. Minorati anche un po'. Sì, però con delle belle gambe. E probabilmente insomma, non è bello, no? Insomma, questa è una roba che si cerca sempre di più di controllare, anche perché molte persone ovviamente obiettano alla nuova informatizzazione e tecnologizzazione, cioè da dove vengono le risorse. Questa è una roba che è super spinta e fa parte del magnifico greenwashing. Dove si giustifica, si genera delle bugie, delle falsità per giustificare che la nuova tecnologia sarà molto più pulita, molto più green, molto più ecosostenibile della vecchia tecnologia impattante. Questo poi rientra sempre nell'idea degli incentivi, ad esempio. Cioè, spesso l'incentivo, ad esempio, detta così, incentivo, sembra che ti incentivi, ti aiuti, Sì, spinga, ti sproni, ma in realtà poi nella maggior parte dei fatti non è così, non è che ti incentiva, ti obbliga, cioè non è che ti dà realmente un'alternativa, cioè oggi faccio l'intentivo, domani te lo blocco, quindi se pensiamo a macchinari obsoleti che non possono essere utilizzati perché pericolosi, perché inquinanti, perché un sacco di roba, quindi non è che ti incentivo, ti blocco. Questo è ben chiaro. E con questa, appunto, idea bisogna spargere il seme del green, quindi spiegare alle persone fuffosamente che questa cosa si fa per il loro bene, perché se no si inquina il pianeta si distrugge e tutto. Una delle parti fondamentali, ho fatto questo preambolo lunghissimo, una delle parti fondamentali per... di questa nuova fuffa è l'utilizzo veramente in maniera smodata e a sproposito della blockchain. La blockchain, il protocollo blockchain, il come protocollo dice Di Maio, blockchain. Non è un protocollo, non fate brutte figure con i vostri amici nerd dicendo il protocollo blockchain, perché fate una figuraccia. Chiamiamolo protocollo pomodoro adesso. Protocollo Di Maio. Meglio. Protocollo Di Maio. E essenzialmente quindi la blockchain, che sarebbe, come dice un po' il nome, una catena di blocchi, cioè un modo di, semplicemente un sistema di certificazione di una qualsiasi cosa, di base funziona molto bene dove la produzione, ad esempio digitale, del prodotto è immediatamente legata alla creazione di un suo codice univoco, che è quello che lo porterà per tutta la sua vita, in modo da appunto garantirne l'unicità per tutto il suo processo. Questa cosa funziona appunto estremamente bene nelle criptomonete e in altri prodotti digitali, anche nella creazione, come si chiamavano quelle, le NFT, no, sì, NFT, non fungible token. NFT, ok, quindi per le, per di esempio, cui abbiamo parlato l'ultima puntata, per sì, le opere d'arte o cose così, dove effettivamente io creo un'opera d'arte al diciamo attraverso un computer, attraverso una digitalizzazione, immediatamente ho la reazione di un suo, una sua targa, ok, di un suo codice univoco. In questo caso ha, diciamo, tra virgolette, senso la sua tracciabilità. Ma nel mondo reale, dove si parla di minerali, di pomodori, di pietre, di miniere, questa roba è totalmente fuori senso. Perché è fuori senso? Perché di base esiste già un sistema di tracciabilità che ha esattamente le stesse falle del problema della blockchain. Quindi c'è proprio fuffa 2.4.0. Sì, perché il problema di questa cosa non sta nel come faccio la certificazione, esatto, è in fidarsi di chi ti dice, esatto, che quella cosa è successa, che sia vero. Mm-hmm. Esatto, è il momento del famoso scambio di chiavi, cioè... la blockchain è perfettamente funzionale nel mantenere quel codice, quella targa inalterata per tutto il suo processo. Il problema è che se all'inserimento di quei file, o insomma di quei dati, diciamo, si ha un inserimento falsato, volutamente falsato, quello resterà per tutta la vita, quindi resta il fattore umano. Se io ad esempio ho un'azienda che mi certifica i diamanti o la produzione di litio in un'azienda, in una miniera dove non si sfrutta il lavoro minorile e non si picchia i lavoratori, molto bello, ma siccome i dati le deve inserire qualcuno all'interno e dire quanto litio oggi è stato estratto, nessuno mi vieta che dall'azienda accanto venga importato del litio invece dove lì li picchiano, li maltrattano, non li pagano, e poi li faccio passare dalla mia azienda che invece è certificata, e così li pulisco. Tanto più che questo molto spesso succede, che queste miniere o situazioni del genere stanno in paesi dove, come sappiamo, è estremamente facile ottenere sotto pressione un po' tutto quello che si vuole, quindi io posso far dichiarare a chiunque in maniera abbastanza facile che quella cosa avviene in una modalità legale, anche se non lo è, quindi insomma il famoso notaio sulle spalle di cui parla Di Maio, lo voglio vedere il notaio di Di Maio in una miniera di litio in un posto remoto, a certificare come se la cava, sì. E quanto è ligio. Sì, poi il problema persiste se ci fossero problemi di lavorazione delle cose, ad esempio appunto viene sì estratto del litio ma poi deve essere lavorato da un'altra azienda, quindi sia che importi un tot di litio e che esporti un tot di altro prodotto finito. Questa, diciamo, questo rapporto non per forza è fisso, può essere che c'è una mandata di litio pessimo, può essere che c'hai un'altra miliardi di robe, per cui questo rapporto non è fisso, per cui hai un'altra volta un inserimento umano di dati all'interno della blockchain e quindi sta blockchain così non serve a niente, non è utile da questo punto di vista. E si ha esattamente lo stesso problema nei sistemi di certificazione attuali, ad esempio per i diamanti, dove in Africa è successo migliaia di guerre interne, prese di potere, colpi di stato eccetera, un po' di tempo fa, non so se ancora, in Sierra Leone i diamanti non si potevano vendere, era embargata, e loro li portavano in Guinea, che è accanto, e li vendevano dalla Guinea, quindi essenzialmente avevano aggirato il problema. Il discorso blockchain in questo caso non risolverebbe niente, perché se in Guinea c'è un'azienda certificata, li portano lì e li vendono dalla Guinea. Sì, tra l'altro mi viene in mente che questo un altro esempio è anche quello molto concreto della certificazione del biologico. Esatto. Cioè la famosa certificazione del biologico che ci sembra il cartellino perfetto, green, verde, dove dietro il quale stanno gli unicorni, è un mondo bellissimo. Cioè fondamentalmente, almeno fino a qualche anno fa, non so sinceramente adesso, ma funzionava che eri tu che portavi il campione di terra o quel che era a fare analizzare, e chiaramente quella terra potevi averla presa dove volevi, e su quella base di quell'analisi ti dicevano: bene, tu hai usato o non hai usato pesticidi o sostanze vietate, e quindi ti si dà il certificato. Ma non solo, le aziende che facevano certificazione non sono aziende pubbliche, sono aziende pagate dalle stesse aziende che richiedono la certificazione. Certo, questo, tant'è che è quello che succede molto spesso è che, per esempio, quando poi ti fanno, ti dicono: eh no, ma noi ti facciamo anche il controllo successivo per vedere se è proprio vero. Ti chiamo un mese prima e ti dico: oh, tra un mese ti faccio il controllo. E chiaramente in quel mese può succedere di tutto. Questo è un po' il mondo delle certificazioni ed è il segreto di Pulcinella, è abbastanza evidente. E certo non sarà una blockchain o un sistema di certificazione digitale a cambiare questo stato di cose, che come per i discorsi che abbiamo fatto prima è un problema squisitamente umano e di capitalismo e di modello economico, e siccome le cose funzionano così, non è che se io ci metto un bel bollino di digitale allora ho cambiato, no, il concetto rimane esattamente lo stesso, il motore è lo stesso. Produci e consuma crepa green. Esatto. Con il bollino attaccato green. Però, sì. Crepa green, crepa green, sei biologico. Esatto. E quindi altra cosa, tra l'altro, oltre alla questione blockchain, c'è il fatto che è un po' il macro problema dal punto di vista appunto di risorse, di consumo di risorse e di ambiente, il fatto che, come abbiamo detto per altre situazioni, insomma, ad esempio quando parlavamo della crisi dei chip, l'Internet of Things o comunque tutte le questioni dell'automatizzazione, del riempire di macchine, di aggeggi che dialogano con altri aggeggi, vuol solo dire riempirsi di chip, cioè moltiplicare all'infinito l'utilizzo di microelettronica, di componenti, la cui produzione è estremamente dannosa all'ambiente. L'abbiamo visto già soltanto quando parlavamo dei chip, anche soltanto da un punto di vista di consumo di acqua è una catastrofe, e c'è tutta la questione delle terre rare. Consumo del suolo anche peggio. Esatto, consumo del suolo, le terre rare, l'estrattivismo con tutta la sua catena di distruzione sia in termini ambientali ma anche in termini sociali e geopolitici. E quindi tutta questa questione in realtà si moltiplica all'infinito quanto più pompiamo questo bisogno indotto di elettronica, perché chiaramente finché un telaio rimane un telaio di legno, bella storia. Quando ci iniziamo, ora senza voler arrivare al primitivismo, però quando ci infiliamo 16 chip perché deve dialogare con un'altra macchina, deve andare in cloud perché così mi becco l'incentivo, per fare questo io ho utilizzato un sacco d'acqua, ho utilizzato un sacco di terre rare e poi sono obbligata a non tornare indietro, perché chiaramente quando hai fatto questo passo non puoi più tornare indietro, presumibilmente. Quindi è bellissimo come tutta questa cosa venga sponsorizzata come un passaggio verso un futuro migliore, più green, tra l'altro usando dei termini in maniera veramente laida, tipo il termine transizione volutamente, cioè non è che se la sono pensata male, cioè un termine che proprio ti lascia così, ti butta l'input della transizione ecologica. Quindi anche se nessuno poi ti spiega il come questa cosa dovrebbe succedere, perché è impossibile dimostrare che l'industria 4.0 porti dei vantaggi di tipo ambientale, e infatti nessuno ci prova, peraltro, perché se andate a guardare i documenti anche ufficiali non trovate nessuno che prova a arrampicarsi sugli specchi, perché obiettivamente non possono dimostrare che questa cosa davvero abbia un vantaggio, cioè, ci provano ma con la fuffa, cioè sì, non con i dati, con degli slogan, sì, però esatto, poi esatto, non vanno nel slogan, esatto. Non anche vanno... perché cioè, vorrei ricordare che il 50% dell'inquinamento a oggi è prodotto dal 10% della popolazione più ricca e tecnologica, mentre il 50% il 10 è buono, il 50% restante della popolazione produce solo il 10%, quindi le due numeri si invertono e io ho fatto gran casino, ma comunque penso abbiate capito. E essenzialmente comunque questo dovrebbe far capire come non è che ci possiamo appendere alla tecnologia come strumento di effettivamente riduzione dell'inquinamento, perché sono i dati che lo dimostrano e non è vero. Il mondo è oggettivamente sempre più inquinato e è sempre più caldo, è sempre più ridotto male, e la tecnologia sta aumentando, quindi non funziona, cioè è un'equazione che non torna. Voglio gettare un'ombra di ottimismo su questo. Tutta la parte poi di green, emissioni zero, si ricollega ai certificati bianchi, certo. Cioè quei crediti che hanno un bel valore monetario, su cui ci sono anche dei progetti su delle blockchain, sui crediti bianchi che si possono bloccare e si possono vendere lì sopra, e tu emettendo zero hai dei crediti che puoi rivendere ad altre aziende che inquinano. Spiegalo meglio questa cosa, perché i certificati bianchi secondo me sono una cosa che non sono nota a tutti e tutte, invece è molto interessante. Dovrei prepararmi un po' meglio, perché è un argomento poi magari faremo sì, una lo portiamo magari la prossima volta meglio. Però fondamentalmente, per esempio, Tesla è un'azienda che ha campato e sta campando da molto tempo grazie ai certificati bianchi, perché si presuppone, al di fuori delle batterie e tutto quanto, che questa azienda produce un prodotto, l'auto a emissione zero, con energia rinnovabile e tutte quelle fregnate, quelle cavolate lì. Questo qui poi effettivamente gli dà dei crediti riconosciuti che vende ad altre aziende che inquinano e che si chiamano energivore. Per esempio tutto quello che è, altro termine fuffa, oil and gas, che inquina parecchio. No, ora il gas no, mi sa l'hanno passato in verde. Ora il gas è diventato green. Che bello questo mondo. Davvero. Il nucleare e il gas sono passati green. Sì, anche il nucleare è green, tanto sì, ormai sì, basta sì, di... Sì, sì. Vale. Beh, tutto. Sì. Vale tutto. E niente, c'è questa compravendita qua. C'è che un mercato bello sopra. E addirittura, bellissimo, c'è stata un'azienda che ha fondamentalmente un'azienda chimica che produceva del gas il cui scarto era considerato propositivo all'ottenimento dei certificati bianchi. Quindi fondamentalmente produceva il gas, lo scarto lo smaltiva, prendeva i certificati bianchi e buttava quel gas. Cioè l'unico business che faceva era questo. Ora certo, devo ripescare il nome, ma è stato un bello scandalo quello lì. Faremo i nomi. Usciremo. Madonna. Altre denunce. Esatto. Bene, direi che vi abbiamo terrorizzato abbastanza. Sì, questo più o meno è quello che avevamo da dire su tutta la questione Industria 4.0. Ci dicono dal pad un input che, insomma, un suggerimento di qualche tempo fa, ormai non, all'inizio in realtà della trasmissione, perché ci dicevano conoscere gli strumenti che si ha in casa e possibilmente imparare a ripararli. Questo nel piccolo, effettivamente, ora chiaramente abbiamo parlato di macroeconomia, di macro sistemi, di industrie, eccetera, però nel grande ci sta il piccolo, ed effettivamente questa è un po' la filosofia che portiamo Sì. avanti, direi, da anni, che sta dietro l'hacking, sta dietro l'eClub, appunto, che poi è ciò che dà vita a questa trasmissione. E sì, effettivamente, di base, tutta, cioè, la filosofia del imparare a conoscere le tecniche e riparare gli oggetti che abbiamo è proprio l'opposto di quello di cui vi abbiamo parlato oggi. Cioè, la filosofia invece imperante è proprio il costruire enormi macchinari, riempirsi di enormi macchinari complicatissimi e elefantiaci e difficili poi da riparare, in modo che siamo dipendenti sempre di più da macchine che non conosciamo fondamentalmente, che stanno lontane da noi. Quindi, bene, molto bene. Stiamo andando nella direzione giusta. Sì, sì, sì. E Tutto a va come vorremmo. parte, noi l'altra volta, tra l'altro, forse, no, era l'altra volta, non era la volta prima, l'altra volta avevamo tralasciato un argomento che avevamo detto che ne avremmo parlato questa volta, invece non lo faremo perché ormai è tardi, che erano come truffare gli autovelox. Quella era perché era nel bagaglio di denunce dell'altra Sì, puntata. esatto, però Ah. l'abbiamo saltata, ci siamo saltate le denunce dell'altra volta, Certo. non ne parleremo stavolta, però vi giuriamo e facciamo una puntata su come funzionano e come hackerare un autovelox. Dobbiamo studiarla però, cioè, Sì, ma cioè, penso sì. io e Red, io almeno me l'ero guardata bene, devo dire, cioè, Sì. No, ma lui ce l'avevamo per guardata. conoscenza, Sì, cioè, per la per scienza. la la scienza. scienza. Lo Certo. facciamo Con la per la io o scienza. senza? Non l'ho mai capito, non lo È so. uguale. Come volete voi. Va bene, e quindi direi che 22:40 vi abbiamo tediato abbastanza. Vi diamo appuntamento quindi tra 2 settimane. Siamo già a febbraio, sì, il 3 febbraio in particolare sarà la prossima puntata di Lovelace. Ancora non sappiamo l'argomento, ma ce lo studieremo e sarà Io croccantissimo. intanto mi sa che invece Infatti. domani farò canne e camicia. È vero, perché tutta questa cosa che abbiamo fatto di mettere Lovelace in palinsesto ha creato grande scompiglio. Sì, devo Anche dire. Slick Chick è completamente nei pazzi. Siamo sempre gli stessi, d'altra parte è Radio Wombat che ci dobbiamo fare. Però tu, quindi Io domani. domani dovrei trasmettere. Domani motori e benzina. Benzina, e faccio anche un po' di confronti con il diesel che ho già fatto, forse anche turbocompressori. Ora vediamo. Bene. Benissimo, vi lasciamo con in compagnia degli ultimi, perché appunto essendo l'ultima traccia ci sembrava didascalico, verso casa, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra 2 settimane sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! Ciao belli Bella bella! e belle. Ci mette un po' a partire. Come un gancio dritto nello stomaco sei andato via. In un sabato di marzo ho perduto un pezzo dell'anima mia. Niente al mondo mai.